to groove. Oggi facciamo gli auguri di compleanno a due grandissimi giocatori. Tony Kukoc, 55 candeline per lui, e al compianto DJ Dennis Johnson, che ne avrebbe spente 69. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te Paolo e nuovamente buongiorno amiche e amici sportivi e non sportivi. Inizia il Mood Group di oggi, imprevedibile martedì 19 settembre 2023. Gli auguri a un grandissimo, due titani del basket, nello specifico già citati da Paolo. Mi soffermo velocemente su Dennis Johnson nel mio dream team personalissimo, lo stesso Larry Bird, per me il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, dirà è il miglior giocatore col quale io abbia mai giocato. I loro backdoor resteranno sempre e comunque nella storia della pallacanestro. Un grande DJ, Dennis Johnson. E poi direi che lo spazio di oggi in partenza sarà dedicato a un Tony Kukoc che secondo me, e questa mia affermazione ha lasciato spazio anche a motivi di discussione, a polemiche anche, in quanto per me l'airone di Spalat, Tony Kukoc, è il più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi europeo. Quindi questa è un'affermazione assolutista, me ne rendo conto. La anticipo sempre con un per me, per sicurezza, ma tutto ciò ha portato a diverse osservazioni che andremo a snocciolare e soprattutto questo mio assolutismo sarà motivato da alcune considerazioni. Allora, intanto ovviamente gli auguri a Tony, ma soprattutto perché questa mia affermazione così importante, sei sempre quello dell'esagerazione con questi complimenti e con queste affermazioni. Ok, allora motiviamole, che per me è sempre molto importante. Per quanto riguarda l'esagerazione, è quando ovviamente ha portato concretezza e contenuto. Andate tranquilli che se qualcosa non mi piace lo capite nell'immediato. Non ho certamente mezze misure in questo caso nel portare critica sia sportiva che artistica. Iniziamo con un po' di musica, non parleremo solo di Tony Kukoc, avremo modo di trovare una Germania campione del mondo. Allora mi è venuto in mente uno dei primi giocatori europei, ancora prima di Tony Kukoc, ma un giocatore europeo che ha fatto la differenza, che adolescente si trasferisce negli Stati Uniti d'America. Lui, nato a Leverkusen, ed è Detlef Schrempf, è tedesco, andrà nell'NBA, sarà un giocatore fondamentale per diverse franchigie. Nella seconda parte magari parleremo anche di Detlef Schrempf. A tra poco. A proposito di musica, loro sono Grey Boy e ci propongono una panacea. We'll be right back. un'epoca di rivoluzione e nel passaggio alla normalizzazione cestistica, lo ripeto per gettare le basi, dal 75-76 fino al termine degli anni 80, una rivoluzione in seguito, una fortissima normalizzazione. Non è una brutta parola, ma non lo sto a spiegare, non vuol dire banalizzazione, vuol dire una forza immensa che si conferma. Si usa molto in politica, in storia, il periodo di normalizzazione è quando un potere prende saldamente la continuità di comando. La rivoluzione invece è il momento massimo di forza, è quando Spartaco, per fare un esempio, rompe le catene, momento massimo di forza. Poi c'è il decadere, ma quello è un altro discorso, è quello che stiamo ampiamente vivendo, ma è naturale, insomma, oddio è naturale, adesso nello sport non è conseguenziale, però tant'è da quello che stiamo vivendo e vedendo. Toni Kukoc, per me il più grande giocatore europeo di tutti i tempi, periodo di normalizzazione, il raffronto va da sé, poi ne potete citare altri, anzi sarebbe di grande aiuto. Drazen Petrovic e Arvidas Sabonis, iniziamo dal principe del Baltico, è un grande centro, è un giocatore immenso, è il centro bianco probabilmente più forte del vero basket in assoluto. Arriva nell'NBA che è già avanti, che è già maturo, sofferente anche usura alle ginocchia, non è esattamente nell'apice. Nonostante tutto, farà dei percorsi in NBA molto importanti. Per me il centro bianco più forte nel periodo di vero basket è Bill Walton, resta Bill Walton, anche lui sofferente da diversi infortuni. Ma tornando a Sabonis, il motivo per cui non lo porto al primo posto è esattamente questo: lui arriverà nell'NBA che già ha portato avanti una sua carriera ben oltre. Ciò non toglie, attenzione, quando faccio queste analisi non sto criticando l'atleta, Arvidas Sabonis è un giocatore con delle mani eccezionali, è un playmaker d'area, è un giocatore che ha delle mani splendide, ha una visione di gioco, ha una capacità sia offensiva e perché no anche di intimidazione, lui è 2'18", per cui insomma un giocatore di spessore anche fisico, presentissimo a rimbalzi, intimidatore nelle stoppate, con questa visione di gioco da playmaker, con questa mano anche fronte a canestro, i fondamentali e i movimenti che sono specchiati, un vero talento immenso, un centro fortissimo. Drazen Petrovic, sfortunato, la sua vita sapete bene com'è terminata disgraziatamente. Drazen Petrovic, il mio commento sarà molto più rapido. Drazen Petrovic è un esterno, è una guardia, è un realizzatore, è immarcabile, è un attaccante nato, è un vincente, è uno sfacciato, è positivamente definito il Mozart dei canestri, perché tant'è, il suo aspetto di coraggio e sfacciataggine è veramente qualcosa di affascinante. È uno dei giocatori dal punto di vista offensivo in un percorso di analisi di tutti i tempi veramente da tenere in considerazione sull'Olimpo della pallacanestro. Questo indubbiamente è qualcosa che non vado a smentire, anzi confermo. Let me show ya, loro sono i tedeschi, Giazzanova. Ora dico solo poche parole per motivare la mia scelta. Toni Kukoc era buono in tutto, in attacco, in difesa, a rimbalzo, nel playmaking, nella leadership, nel carisma, nel coraggio, nella mentalità vincente, nel tiro da fuori, nel gioco spalle a canestro, nel passare la palla, nel portar palla, in transizione. So you got that look again. like you lost your best friend. Said he didn't get to know you, didn't get to see above all the beauty in you. You chose to set aside, you chose to compromise. Every time you saw the dangerous signs come crashing in. Oh, we're so hard on ourselves. We're only human. There's lessons we all can learn. If you're through with love, let me show you at least a thousand reasons why you should take your time before you fall again. If you're through with love, now's a good time to wish upon the starry sky. And take your time, trust that you will win. Oh, it's so hard to be alone, and it feels so good to have a kindred soul. But it's better when it's only floating around. That's the kind of love that stays around. So he times you, winds and dies. Nei risultati ottenuti. But he never seems to want to, never shows an interest in anything about you. You chose to set aside. Diciamo che Tony Kukoc è stato un pioniere. Sì. Un apprendista degli europei in stelle strisce. Come erano stati Petrovic, Divac, Marciulonis e Sabonis, i primi a incidere veramente su una partita NBA non americana. Beh, ricordiamo che Sabonis doveva arrivare in prima battuta al draft dell'85, quello di Patrick Ewing. Si presenta in NBA un decennio dopo, già abbastanza logoro fisicamente, ma che spiegava comunque basket forse anche meglio di come sarebbe arrivato dal suo vincello, perché aveva già un bagaglio di esperienza veramente immenso. Sono d'accordo con te, Willy. Con tutto quello che hai detto, Tony Kukoc portava un bagaglio alla partita veramente completo. Nessun europeo, anche adesso in NBA, non ce l'ha, non l'ha ancora fatto vedere. È per palati fini, ha un'estetica oltre, può portare palla come può dominare sotto le plance, può spaccare una difesa chiusa con una mano che definire morbida e precisa è un eufemismo, capace di passare la palla sempre a tutto campo, capace di leggere la partita meglio di un playmaker, con una mentalità vincente che veramente lascia senza parole. Lascio sempre anch'io, chiaro, ci mancherebbe, ieri ne ho sentite di ogni, per me il più grande è Drazen, poi ovviamente non si può motivare così nell'immediato, Arriva un commento che è l'unico sul quale dico, no veramente, questa volta l'hai fatta fuori dal boccale, adesso non ricordo chi l'ha portato, ha detto no, io preferisco il tedesco, poi io non l'ho mai visto giocare, Dirk Nowitzki, non l'ho pronunciato bene, in quanto vince un anello e lo fa da protagonista. Bravo Kukoc, che ha giocato con Jordan, Pippen, Rodman, Ron Harper, e l'ha fatto da secondo violino. Ecco, definire Kukoc un comprimario è bestemmiare durante l'Angelus del Papa. Attenzione, se vuole lo sa fare, è un altro discorso, è tutto un altro paio di maniche. Se vuole, sa fare il comprimario, ma se lo vuole lui, se la situazione lo necessita. Ma Kukoc nel secondo three-peat, cioè non ci sarebbe stato un secondo three-peat senza Tony Kukoc. It feels so good. It feels. non nascondo che poi c'è anche un gusto personale, ma è chiaro, è ovvio, come quello un po' più piccolino che magari al campetto, no, ha la passione per Drazen Petrovic, come l'appassionato dei grandi lunghi Arvidas Sabonis, non lo nascondo, io amo gli all-around player, è ovvio, quindi il mio attaccamento all'airone di Spalletto o alla Pink Panther, Pantera Rosa, perché è così un magrone filiforme, veniva chiamato negli Stati Uniti d'America. Ma facciamo un po' di storia, perché lui è arrivato fino a questo punto, soprattutto dal punto di vista della mentalità. Ma ricordate, vi ho parlato di una normalizzazione, e anche per Kukoč io dico, nessuno è innocente, nessuno è innocente. Alla pallacanestro nel sangue, a Spalato vince tutto, sin in categoria giovanile. È di una generazione appunto dei Petrovic, dei Divac, gli atleti della normalizzazione jugoslava, poi al passaggio della frammentazione jugoslava. È un vero protagonista. Lui a Spalato vince tutto quello che c'è da vincere e di più. Un grande ma discutibile general manager, tale Jerry Krause di Chicago, dice: lui deve assolutamente arrivare nell'Illinois, ai Chicago Bulls. Dobbiamo metterlo sotto contratto, dobbiamo prenderlo assolutamente. Jerry Krause è odiato visceralmente da Michael Jordan e Scottie Pippen. Stiamo parlando del Gotha, stiamo parlando del massimo per l'epoca, e devono fare di tutto per svergognarlo. Quindi la scelta Tony Kukoč a Chicago deve essere assolutamente bocciata. Tony, nulla di personale, ce l'abbiamo con chi ti ha scelto, per cui dobbiamo svergognarti, umiliarti, farti fare una figuraccia, renderti un incapace, picchiarti, umiliarti, chi più ne ha più ne metta. Beh, Michael Jordan un bel caratterino, insomma, non amava i giocatori europei, poi cambierà idea ovviamente, Michael Jordan è lo stesso che quando andrà a Chicago dice: mi trovo benissimo, c'è solo un problema, la divisa è di colore rosso, ecco, per darvi un'idea. Ma sai che la Nike è sfruttamento per bambini del sud-est asiatico? Lui risponde: sì, ma i soldi non fanno schifo, ecco. Jerry Krause dice questo. Attenzione, qui parte il nessuno è innocente. Siamo ai mondiali under 19, siamo in Italia, siamo a Bormio, 1987. Qual è la data di cesura che io di solito metto nella pallacanestro? 86-87. Guarda caso, tutto ciò capita nell'87. La finale è Jugoslavia Stati Uniti d'America. Ovviamente c'è il mondo del basket, è l'under 19, io li chiamo juniores, ai miei tempi erano gli juniores, quelli che sarebbero stati il futuro. Mondiali, juniores, gli Stati Uniti non mandano una formazione stellare, però sono molto sicuri di vincere, sono certi, ne ricordo due che poi faranno carriera, stessi Hogman e The Glove, Gary Payton. Non c'è partita per un motivo che sarà il cambiamento totale, sarà un sintomo di cambiamento totale. Allora, Tony Kukoč, attenzione, ascoltate bene, Tony Kukoč farà 11 su 12 da 3 punti. Allora, quando hai un avversario che su 12 conclusioni ne mette 11, oltretutto con un punto in più nella conclusione consueta, hai un bel da prendere dei rimbalzi, hai un bel da difendere, hai un bel da giocare a pallacanestro, hai un bel da fare. Ma quando hai un avversario che fa 11 su 12 da 3 punti, portarla a casa, puoi giocare finché vuoi. Da qui la famosa affermazione di Aldo Giordani, che scriverà su Super Basket, e io sono purtroppo d'accordo con lui: oggi ho visto l'inizio della morte della pallacanestro. Profeta. Scottie Pippen non avevano tanta fiducia sui giocatori europei, ma non per colpa dei giocatori in sé, ma ai tempi l'allora general manager Jerry Krause gonfiò talmente tanto l'acquisto di Toni Kukoč che le due stelle dei Bulls la presero a male. Difatti gli fecero una bella lezioncina di basket a Barcellona 92, praticamente umiliandolo sul parquet. Ma Tony purtroppo è tosto, non si piega, e poi lo farà vedere anche ai due citati in successivo, quando arriverà anche lui ai Chicago Bulls. Dopo quella partita e altre esibizioni mondiali, gli americani forse inizieranno a capire che bisogna mandare quelli buoni, i professionisti, perché sennò non la vediamo più, eh. Sì, fu una cesura quella partita, eh. Adesso non ho il nome dell'ascoltatore che dice: non ho più il cellulare, e quindi te lo do io, 333-180-9494. Io non ho finito la cuccozia, un comprimario, figurati, a me è sembrato così, un secondo violino per me vuol dire un comprimario, ma dire che uno la fa fuori dal boccale quando paragona due giocatori senza che tu abbia mai visto giocare uno dei due, che è questo Dirk, di cui il cognome mi lascia difficoltà di pronuncia, tutto qui, mi pare leggermente supponente. No, semplicemente non l'ho visto giocare, non ho voluto essere supponente. Ed è finito il detesco Dirk, lui non porta acqua al tuo mulino. No, secondo me sì, perché ho l'onestà intellettuale di dire: non l'ho mai visto giocare, cioè... Ed è uno dei motivi, caro amico, certamente il mio essere portare avanti la conduzione in maniera animata non vuol dire che ci manca, anzi grazie e buona giornata, ci mancherebbe. È uno dei motivi che ogni giorno sto valutando se nella struttura radiofonica portare avanti il Mood Groove o meno, perché mi rendo conto che io ho una visione oltre che passatista che diventa dal 92-93 in avanti veramente con una deficienza, nel senso, come dicevano i latini, di mancanza, per cui è inutile parlare di pallacanestro quando si hanno queste lacune, e quindi sto appunto pensando come strutturare la cosa e come portarne avanti con i contenuti o cambiare radicalmente, eh. Sabonis di Seul 1988 avrei voluto in NBA, e c'era anche un Marciulonis che sì, certo. Puoi limitare il basket al tuo basket, è assolutamente legittimo e nella tua visione, da qui deriva la linea editoriale del programma, però dovresti invitare nell'eventuale contraddittorio chi la pensa diversamente. Ah, ciao Vittorione, adesso ti sei firmato. Certo, ma guarda che una cosa, già leggendo e conversando con te, è motivo di diversificazione e di avere opinioni diverse, Non nascondo certo, l'ultima cosa è la censura. My guai. non lo nascondo, per me non è più basket ma è circo basket da quel pochettino che ho visto, e anche questa è una mia visione. Vukoč è fondamentale nei Chicago Bulls del secondo tripeat. Altro motivo per cui ce l'hanno con Jerry Krause è perché manderà via Charles Oakley, che è praticamente la guardia del corpo di Michael Jordan. È questo giocatore enorme, immenso, una vera quercia, The Hawk, Oakley. Charles Oakley, oltre che essere un grande rimbalzista, è un intimidatore. Non solo blocchi i rimbalzi, ma il cosiddetto lavoro sporco. Ecco, e per Michael Jordan era fondamentale. Lo stesso Michael Jordan cambierà, per così dire, l'ordine dei fattori. E per cambiare quest'ordine dei fattori è per quello che mi indispettisco cestisticamente parlando quando sento dire che Tony Kukoč è un secondo violino. Per cambiare quest'ordine dei fattori, Tony Kukoč deve diventare un protagonista, perché è una consecutio, è consecutivo, è normale tra i due periodi cestistici dall'86-87 in avanti. Da una parte l'atletismo, dall'altra parte, certo, sono inconsapevoli di questo cambiamento. Un 11 su 12 da tre punti e vincere una partita vuol dire cambiare completamente l'ordine dei fattori cestistici fondamentali fino a quel momento. Tony Kukoč e Michael Jordan l'hanno fatto. Torto collo pare arrivare Tony Kukoč, lui stesso, pensate la maturità che rimanda al suo arrivo in NBA, perché c'è il primo ritiro di Michael Jordan, lui arriva, l'allenatore sarà Phil Jackson e guarda caso quegli anni li passerà di transizione in Italia a Treviso con un'altra squadra stellare, porterà a casa due titoli tra cui il campionato italiano con Vinny Del Negro. Quindi dove va Tony Kukoč? Vince. Si arriva in NBA, si inizia un percorso che, come ho detto, renderà uniforme l'aspetto non solo offensivo ma anche di approccio cestistico. Io pure resto interrogativo con il rientro di Michael Jordan, il three-peat, il secondo three-peat con Phil Jackson. Prenderanno un giocatore esterno, Ron Harper, fortissimo, intelligente, che anche lui cambierà. Diranno il playmaker, ma non c'è più l'ala forte, il playmaker, l'ala piccola, la guardia tiratrice. No, sono quattro giocatori assolutamente pari ruolo e intercambiabili, perché Scottie Pippen non prendeva giù 12 rimbalzi se c'era bisogno, Tony Kukoč non portava palla se c'era bisogno, Michael Jordan non giocava in tutte le parti del campo, Ron Harper non faceva 25 punti se c'era bisogno. A questo punto il fattore del ruolo e l'eterogeneità cestistica, che per me era molto affascinante, non esiste più, c'è un aspetto omogeneo e sarà vincente, eh? E sarà vincente. Sicuramente ha fatto la parte del secondo violino, quando giochi con Michael Jordan non può che essere questo. Sono dell'idea che se Tony Kukoč fosse andato a giocare nel suo prime, quando era ancora bello, giovane e pimpante, in una squadra medio-bassa NBA sarebbe stato tranquillamente un franchise player. Così arrivò ai Bulls nel 93-94, l'anno in cui Michael Jordan si ritirò per la prima volta. E diciamo che allora Coach Phil Jackson due cosine buone le vedevi lui, anche perché ogni tanto gli affidava anche il tiro della vittoria. Ecco, tutto questo suscitò le gelosie dell'allora stella Scottie Pippen, che non voleva farsi surclassare da un giocatore non americano. Ecco, questa era la bravura e la forza di Tony Kukoc, cosa poteva essere in grado di fare. Valore aggiunto alla mentalità, la mentalità, la determinazione, questo bel faccino, magrolino poi. Sia Detlef Schrempf che Tony Kukoc quando arrivano nell'NBA mettono insieme due spalle, ma comunque va bene così, forza del lavoro in palestra, diciamo così, va là. Sì, non mi dilungo su alcuni episodi come il famoso tiro che durante un time out decisivo Phil Jackson chiaramente dovrebbe destinare a Scottie Pippen. No, questo tiro tra l'altro pesava, questo tiro mi pare per arrivare a una finale di conference, comunque Paolo sicuramente è già più informato. No, questo tiro lo prenderà Tony, oddio, cioè Pippen va giù di testa per dire. E pensate nelle mani di Tony Kukoc, che non giocava soprattutto all'inizio solo contro i suoi avversari, giocava a modo suo contro anche i Chicago Bulls, e questo lo dimentichiamo. Beh, il tiro lo mette, ecco, così andiamo in pubblicità tranquilli, poi rientriamo, rifacciamo gli auguri a Tony e parliamo un po' di quella Germania di cui non so nulla. Per me c'era l'Alba Berlino negli anni Ottanta, che regolarmente cacciavano fuori dalla Coppa dei Campioni, come il Crystal Palace a Londra, erano le squadre europee materasso. Adesso la Germania, vabbè, è circo basket, secondo me è diventata campione del mondo, per cui va bene così, anzi onore al merito. Parliamo un po' del primo tedesco che ha spostato in NBA, ok? Tutto ciò nella seconda parte del Move to Groove di oggi. A tra poco! Sdoganare il gioco senza più, diciamo, giocatori di ruolo, erano tutti alti e grossi, capaci di portare palla, di far canestro, di difendere, di fare un po' di tutto. Me lo ricordo bene, era una serie di playoff contro i miei New York Knicks. Cominciai a seguire meno l'episodio dell'ultimo tiro, addirittura nei playoff l'ho prese contro i New York Knicks. Mi dispiace Paolo, sai che ho una simpatia per i Knicks. Ultima provocazione, se vi va, 3331809494, scrivetemi un difetto cestistico di Kukoc. Non so, forse non faceva la doccia dopo l'allenamento, boh, non lo so, non lasciava l'asse del water sporco, non ne ho idea, non lo so, lo chiedo a voi, visto che vengo così, magari giustamente, forse le mie parole dettate dall'entusiasmo vengono confuse con supponenza. No, assolutamente, sono il primo io a dire che non ho mai visto giocare Tim Duncan, sono il primo io a dire che non ho mai visto giocare Dirk Nowitzki, adesso magari l'ho pronunciato male, che ho visto giocare poco Kobe Bryant, da qui la mia onestà intellettuale che porto in ogni format mi dà la riflessione, ma ha senso il move to groove? E anche questo magari è una risposta che potreste darmi in aiuto voi, sempre al 333-180-9494. Detlef, povero Detlef Schrempf, che grandissimo giocatore. Allora tutti dicono più grande, ok, Larry Bird per me, come ho già detto, più grande giocatore di basket di sempre, allora lo paragoniamo a Chris Mullin. Io vi dico la verità, per me, oh, la dico grossa, per me il giocatore più vicino a Larry Bird è stato Detlef. Andava per alcuni, cioè intendetemi bene, poi è chiaro che bisogna amplificarlo, però omaggio alla Germania campione in questo modo, ricordando questo grande campione, più volte All-Star, da Dallas a Indiana a Seattle, una carriera in NBA lunghissima, sia dalla High School, lui adolescente da Leverkusen, arriva negli Stati Uniti, inizierà un percorso sia didattico che cestistico nell'High School e nel college, andrà a Washington College negli Huskies, Washington Huskies, dopodiché approda a Dallas per il draft che lo vedrà tra le prime scelte. È stato un sesto uomo importante, caratteristiche tecniche, adesso non vi tedio ulteriormente, un tiratore eccezionale, un giocatore di presenza fisica, utile sotto le plance, con intelligenza cestistica e quella misura specchiata di saper leggere la partita. Non lo nascondo, uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, Incoraggiamento, non ci pensare nemmeno di toglierlo dalle tue rubriche, mi raccomando, grazie. No, non sto cercando approvazione o capti o benevolenza, assolutamente no, semplicemente un aspetto funzionale per portare una narrazione radiofonica, in questo caso telefonica. Monografia dedicata al tre volte campione NBA Toni Kukoč, più volte campione in Europa, sia nella ex Jugoslavia che in Croazia, nella sua città di Spalato, nonché passando per l'Italia a Treviso. Questo ha vinto tutto ovunque. chiudo con la nota, ok, di spettacolarità. Ecco, questo è un giocatore, l'estetica è innamorante. Grazie alla co-conduzione di Paolo Onofri, ma non solo, di Lino e di Vittorio e di tutte e tutti voi che avete scritto al 333-180-9494. Domani, mi raccomando, sempre valido, 333-180-9494. È il Voltiamo Pagina, libri a colazione con Silvia Albertazzi, il nostro notaio per ufficializzare la vittoria dei libri della settimana attraverso quiz. Grazie per questa chiusura, per questa chiosa, Vittorio. Quindi nessun difetto per Tony e nemmeno nella tua chiara onestà intellettuale. Ma dovresti limitare il tutto alla storia del basket fino al 1987 e specificarlo. Ma lo faccio ogni volta, Però giustamente dice perché non tutti magari sono ascoltatori fidelizzati e consenzienti. Lo faccio ogni volta. Ma nuove leve che magari potrebbero apportare nuova cultura cestistica, giusto? E quindi in conclusione anche Vittorio. Quindi ok, Kukoč MVP europeo della tua epoca, già. Dopo la pubblicità, l'EDP enciclopedico, Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Grazie per l'attenzione e la sopportazione. Beh, meno c'è buona musica, dai. E l'appuntamento con il breakfast alle ore 7 domani mattina. Vi aspetto puntualissime e puntualissimi. Mi congedo a voi con un caloroso abbraccio e l'augurio di una buonissima giornata. Ciao a tutte, ciao a tutti dal vostro William Piana. Ciao!